questo latrio come su carro urato trionferà il valor dell'empietade. Son già pronto destrieri, caste, bandiere, lauri, palme, trofei. Sol manca il varco al trionfale ingresso, io l'aprirò. Non trovan più follie, un colto, un sano, egli cosa nobi, e tutti accosto, o cielo. Confusa l'alma di amore, da mi prego, non sa se il suo nemico interrompisi, o l'amante intervino. Stringe il gran potere d'un giuramento, come lo stringe ogni tragedimento, tornando la rovina. Il suo pietoso amore mi va dicendo, il tuo lotto non sei, codeste guancia sparse di gelle rose, tu segni appena il vero impero, mentre la bruto. Chi si protesta adesso? Chi non sarei tanto famoso reando? In si tenere tale, è così delicato e non l'aspetto. Qui parlare dei sincero, il punto è questo, che ho distrinto il mio seno, amante amato, un nemico odiato, del mio tenero amore lascio scelto, ti condanno a morire. Parla, ti ascolto. Chi morrà, chi tiranna, un innocente, io son di lui difesa. Ersilla, Ersilla, volgare impresa in lei del mio potere, spezzar queste ritorne. Lui! In questa d'insolito vigor prova possente, sincera al fine il dubbio tuo crudele. Di vaneggiare or più non fingo, il punto dal ciel prescritto è giunto all'estremo tuo ciglio. E fisso in cielo che per mano d'Orlando, Ersilla cara, Orlando, Orlando solo, e contro i tuoi guerrier stringo la spada, là, Argindan, quell'arma a terra. Ecco, signor, ti obbedio, uomo codardo, quest'amor, questo impegno, questo coraggio, che buccia che vuole, Ersilla è tuo. Ciò che vuole, posso giacere ciò che vuole. I ceppi ti sciolgo, amico, e a questo sen ti stringo.